You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto, la trasmissione di Radio 24 che vi porta a conoscere un pezzetto d'Italia con radici altrove. Questa sera ho il piacere di avere uno chef perché la cucina peruviana sta conquistando sempre più spazio nella ristorazione gourmet e uno dei protagonisti di questa esplosione di sapori in Italia è lo chef Rafael Rodriguez. Benvenuto. Grazie a voi per essere ospite da questo programma. Abbiamo il piacere di averla perché vogliamo parlare questa sera dell'identità attraverso la cucina peruviana, no? E lei è stato protagonista negli ultimi anni grazie a Gocce di Prisco, il ristorante che ha guidato fino a poco tempo fa, ma adesso ha aperto un nuovo ristorante a Milano, no? Esatto, il ristorante si chiama Quechua, un ristorante cucina gourmet totalmente peruviano al 100%. Si trova in una via Meda a Milano, la stessa di grandi ristoranti italiani, quindi una via quasi che sta diventando simbolo della alta cucina a Milano. E lei sta portando sempre più questi gusti che abbiamo imparato a conoscere in questi anni a Milano, anche grazie a una manifestazione recente che è stata Taste of Milan, dove insieme ad altri chef ha fatto assaggiare a chi ha partecipato dei piatti, dei piccoli piatti, delle piccole idee della sua cucina. Ma so che stasera a Radio 24 lei ha portato un piatto. Esattamente, io ho portato un piatto molto tradizionale peruviano che si chiama ceviche. Come scordarlo, io l'ho assaggiato pochi giorni fa e devo dire un'esplosione di sapori. Esattamente, molto ricco di sapori. Noi usiamo il pesce fresco, in questo caso io ho utilizzato la ricciola e la aromatizzata con succo del lime, con tanti aromi come verdure, sedano e peperoncino e così via. Poi c'erano anche delle alghe particolari. Esatto, ho messo dentro il piatto per dargli un tocco più di frescura un'alga che si chiama cucciuro o uva di lago o di fiume che cresce a 3600 metri sul livello del mare. Sembrano degli acini d'uva oppure assomigliavano anche, mi hanno ricordato, le uova del pesce. Perfetto, molto spesso la chiamano il caviar delle Ande. Il caviale delle Ande. Esatto. Perché ha questo gusto di mare in effetti, no? E questo aspetto particolare. E poi c'era anche del mais, se non mi ricordo male. Esattamente, il Perù è molto ricco, ha una biodiversità impressionante. E noi vantiamo con una gran varietà di specie di pannocchia, per cui una di quelle che ho messo io è una che si chiama choclo, è una pannocchia di color bianco, con cui veramente ogni chicco di questa pannocchia è veramente grosso. E abbiamo aggiunto anche un altro tipo di pannocchia, ma questa più secca, che si chiama chulpe. Noi la friggiamo e diamo una croccantezza in più dentro il piatto. Thank you. perché, come lei diceva, la cucina peruviana è una delle più variegate del mondo grazie all'eredità degli Inca, delle immigrazioni dalla Spagna, dal Giappone, dall'Italia, dall'Africa, insomma sapori da tutti i continenti, oltre al fatto che c'è la terra, c'è il mare, ci sono le Ande, quindi dipende da dove ci si trova in Perù, no? Ci dia un'idea della cucina tradizionale peruviana, per chi non la conoscesse. Beh, la cucina peruviana tradizionalmente la può trovare in diversi modi e regioni. In tutto il litorale della costa si mangia molto spesso il ceviche, la causa. Se andiamo alla parte centro del Perù, la parte andina, possiamo trovare lo yuco, possiamo trovare la crema alla huancaina. Se andiamo sul nord troviamo l'arroz con pato, il seo de cordero, il seco de cordero, il arroz alla norteña. Se andiamo sulla parte della giungla troviamo la cecina, che è una carne affumicata di maiale, troviamo il tacacho, los juanes, il juane che è una specie di involucro dove va messo il riso con del pollo dentro, molto particolare. Ogni regione del Perù ha la sua biodiversità e la sua preparazione. Mi viene da dire un po' come l'Italia, che ha una grande varietà esattamente. Di prodotti. E lei ha citato la causa, che è un piatto tipico, anche popolare vostro, che ha un nome e una storia molto significativi. Certamente, certamente. La causa è uno dei piatti che ha preso questa denominazione causa, dovuto che all'epoca della guerra, quando gli uomini contadini andavano a lottare per difendere il territorio, molto spesso le donne, non trovando altro che patate, hanno iniziato a creare questo impasto e allora andavano sotto le armi a raggiungere i loro uomini e sotto l'arma dicevano per la causa, ed è lì denomina o prende l'origine il nome di causa. Mai di recente c'è stata questa scoperta della cucina peruviana? Beh, questo lo dobbiamo grazie in realtà a, credo, molto spesso alle proprie presentazioni che noi realizziamo in diversi paesi del mondo, come grazie ai grandi maestri di cucina peruviana come Gastón Arcurio, Virgilio Martinez, Nito Caro Semura. Molti di questi personaggi hanno realizzato eventi di gran scala, diffondendo sempre di più la pietanza. Poi anche penso che tutto va legato anche al turismo, per cui penso che le stesse persone che vengono al nostro paese assaggiano, deleitano i nostri piatti, prima o poi faranno un commentario e così via via, piano piano, iniziato a estendersi la parola della gastronomia peruviana. Lei ha ricevuto molti premi, è stato vincitore l'anno scorso del Giro Tonno di Carlo Forte, premiato per il piatto più innovativo al Couscous Festival di San Vito Lo Capo, e ha ricevuto di recente invece a Lima, nel suo paese, il prestigioso premio Miradas come migliore chef della cucina peruviana in Italia. È vero. Una bella responsabilità. Sì, veramente un bel premio. E questo ci comporta veramente a dare sempre il meglio di noi, a cercare sempre di portare il nostro proprio territorio nel piatto nel modo più corretto e giusto sia possibile. Ci fermiamo brevemente e torniamo con lei tra pochissimo a parlare ancora di Perù, di identità, di cucina. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Siamo questa sera con lo chef Rafael Rodriguez del ristorante Quechua di Milano, con l'obiettivo di raccontarvi qualcosa di più su questa cucina sempre più di tendenza, la cucina peruviana che si è imposta anche in Italia. Chef, come è arrivato in Italia e perché? Ora, sono arrivato in Italia poco tempo fa. E la storia è semplicemente che ho iniziato a imparare praticamente a fare lo stagista, imparando la cucina che avete voi, che è veramente molto vasta e ricca, e mi sono innamorato perché in realtà davvero avete tanto da offrire. Ogni regione ha il proprio formaggio, il salume, il vino, ogni regione ha una sua produzione, e è fantastico vedere che sono insieme ma tutti diversi. Prodotti diversi, fantastici, preparazione di formaggi, per cui ho iniziato da lì a incantarmi sempre di più e a cercare di abbinare qualche caratteristica importante che avete voi, come i risotti, pasta, e perché no, ho realizzato anche i connubi con alcuni piatti nostri, in modo di capire come potevano essere realizzati, e veramente sono venuti fantastici. Ma è possibile abbinare la cucina italiana a quella peruviana? Senz'altro, io faccio un piatto che è molto particolare, che si chiama, voi lo chiamate risotto alla milanese perché siete lo zafferano. Io invece di mettere lo zafferano utilizzo il prodotto peruviano, che in questo caso è un ají, che si chiama ají amarillo, un peperoncino giallo, che dà questo tono di colore ma senza aggiunta di colorante, proprio naturale, un giallo molto vivace e che non picca per niente, perché dobbiamo trattarlo in modo che sia molto possibile di digerirlo, e viene questo colore acceso che è identico al risotto milanese. Qual è, chef, la sua idea di cucina? La mia idea di cucina è quella che durante tanti anni di viaggi, di esperienza, ho realizzato. Per cui cerco di dare gli aromi peruviani al 100%, ma sicuramente matizzandolo in un piatto con alcune impronte di quello che ho imparato nel trascorso dei miei viaggi, realizzando veramente delle piccole modifiche strutturali più che del sapore, e questo è il mio modo di presentarlo, il mio modo di vedere la mia cucina. Possono reperire in Italia i prodotti peruviani, gli ingredienti tipici del Perù? Ci sono? È possibile trovarli? Sì, certamente ci sono. Io normalmente, noi come ristorante, abbiamo una cosa molto importante, stiamo veramente dando appoggio alle piccole comunità dentro il territorio del paese, del Perù, per cui a me la merce mi arriva ogni settimana mi arriva fresca il prodotto, e noi diamo una sostenibilità allo stesso tempo alle piccole popolazioni che si trovano nel mio paese, che contribuiscono con noi a portare avanti questo ristorante e allo stesso tempo noi contribuiamo con loro a far crescere industrialmente. Uno dei prodotti più affascinanti del Perù, almeno che io trovo affascinante, sono le patate. Lei a Taste of Milan aveva dato prova di un piatto fatto con tre patate di colori diversi, anche esteticamente un piatto molto bello, molto affascinante. Quindi la patata è centrale nella cucina peruviana e nel suo menù. Certamente, giustamente come lei ha detto, una cosa molto giusta, in Perù praticamente nel mondo ci sono 3.600 tipi diversi di patata e il Perù ne vanta con 3.000. Per cui quel giorno lì ho presentato veramente solamente 4 di questi tipi di patate e abbiamo rianimato il sapore aggiungendo dei piccoli topping, dandole un sapore molto particolare e con delle piccole creme che giustamente noi vantiamo, come dicevo prima, peperoncini. Quindi anche da un cibo povero come la patata si può fare ristorazione gourmet? Sì, certamente, si può fare di tutto, basta soltanto sempre avere l'immaginazione giusta e la giusta visibilità di quello che uno veramente vuole raggiungere o fare. E poi ci sono i super cibi, no? Cosiddetti, cioè altamente proteici. Sì, totalmente. Noi non solo vantiamo di quello, vantiamo è impressionante perché la verità è che Perù è ricco, come dicevo prima, nella sua biodiversità, e andiamo anche con dei pseudo cereali come la quinoa. Qua si conoscono solo 3 tipi, ma in realtà esistono, se non sbaglio, circa 3.300 tipi diversi di quinoa. E qua solamente è arrivata la gialla, la nera e la rossa, ma mi creda, ci sono dei colori veramente fantastici. Poi c'è l'amaranto. Esatto, l'amaranto anche lui è molto ricco. Lui in questo caso è molto proteico come la quinoa. Hanno tantissima salute veramente per gli esseri umani. E sono privi di glutine, per cui è molto molto utile. Come è iniziato a cucinare, chef? Da piccolo, da ragazzo, oppure è un amore recente? No, io ho sempre cucinato da quando ero giovane, perché con i ragazzi del quartiere, quando finivamo a giocare a pallone, si tornava a casa e si faceva ceviche. E non lo so, se avevo fame mi mandavo un tramezzino. Poi mia madre sempre faceva dei servizi di catering, mi pare una buona pasticcera. Io ormai da un po' di anni che non lo fa più, ma è stata una delle pioniere a realizzare dei grandi dessert nel nostro paese. Era, a volte noi per guadagnare un po' la paghetta, diciamo, mamma vai, ti faccio il cameriere oggi, vengo io. Gli davamo una mano al servizio del catering. E anche quando faceva le preparazioni eravamo tutti noi lì a dare una mano, a impastare, a decorare, a portare il zucchero. Era molto divertente, in realtà da lì parte molto spesso quello che io ho imparato e grazie a lei penso che ho intrapreso questa strada. Segreto, chef, di un buon ceviche anche a casa? Ce lo consiglia come fare un buon piatto? Innanzitutto immagino pesce molto fresco. Esatto, l'idea di un buon ceviche anzitutto è la materia prima. Se il ceviche è fresco, basta, hai il 70% del piatto quasi pronto. E l'altra cosa è veramente il modo in cui imposti. È importante mettere prima il sale, non il succo dell'ain, sino il sale, perché quando mettiamo il sale il pesce si insaporisce, ma se mettiamo prima il succo dell'ain e vogliamo poi mettere il sale, non si potrà mai arrivare a un equilibrio, visto che il limone prevale sul sale e più sale inizieremo a mettere, perché visto che non raggiungeremo questo sapore, questo equilibrio, per cui è fondamentale mettere prima il sale peperoncino dopo e poi il lime, il succo del lime. E quanto tempo deve stare a marinare il pesce? Io normalmente 4 minuti è pronto per me, non più di 4 minuti. Quindi abbastanza poco. E per la freschezza del pesce, che serve l'abbattimento? Perché talvolta, ad esempio per il sushi, esatto, si parla della necessità di abbattere la temperatura del prodotto. È una cosa che facciamo costantemente con tutti i prodotti che ci arrivano. Praticamente quando ci arriva il frutto di mare, il pescato in questo caso, il pesce, noi fresco lo filettiamo, lo porzioniamo e dopo lo abbattiamo, in modo di essere tranquilli noi e di dare una sicurezza al nostro commerciale. Leggiamo sui giornali tutti i giorni della crisi che sta attraversando il Venezuela ed è un paese vicino al Perù. Voi sentite, il Perù sente questa difficoltà? Sì, infatti adesso esiste una gran migrazione non solamente dei paesi del Venezuela, sino di diversi paesi intorno al Perù che stanno emigrando da noi per poter emergere, crescere anche loro e appoggiarsi diversamente alla crescita economica che stiamo avendo. Infine, chef, tornando ai nostri temi della cucina, che cosa suggerisce a una persona che non ha mai assaggiato cucina peruviana per iniziare? La cucina peruviana molto spesso, quella vera tradizionale, si basa molto spesso sul street food, cucina di strada. Noi avevamo un piatto che si chiama anticucho, molto spesso anche il ceviche si fa in questo modo, come alcune pietanze. Per cui io direi che per chi vuole veramente iniziare a capire un po' il concetto della cucina peruviana, dovrebbe partire con i piatti come la causa, il ceviche, come l'anticucho, e poi altri piatti che sono ancora più deliziosi come la crema alla huancaina, che è una crema molto gradevole al peperoncino, come la ocopa, una preparazione fatta veramente in una messa a luna con una pietra a cava, in modo di realizzare questa crema molto particolare. E altre pietanze la prendiamo nel nord, come il riso con l'anatra, l'agnello. Per cui direi che i piatti da iniziare sono veramente tanti. E per finire, un ron tipico peruviano e un dolce magari. Ah, allora, come un ron molto tipico peruviano, a parte del ron, milionario, che è veramente il top dello che abbiamo noi in Perù, abbiamo anche un buon pisco, il pisco per eccellenza. Lo che è un distillato, no? Esatto, un frutto di uva. E come dessert ne abbiamo tantissimi. Abbiamo la ciccia morada, la mazzamorra morada, il riso al latte, il suspiro alla limegna, che sono i dolci emblematici per eccellenza. Poi supposamente anche il croccante di lucuma, che è un frutto molto ricco, molto particolare. Già nel 2015 il famoso chef Adrià, patron della cucina molecolare, aveva pronosticato: il Perù è la culla della prossima rivoluzione gastronomica. In effetti, in 2 anni la cucina peruviana è diventata la tendenza del momento. D'altra parte, è una delle più variegate del mondo, per 2 ragioni. Il Perù è considerato un centro importante per la diversità genetica dei raccolti. Ci sono 35 varietà di mais, 15 specie di pomodori, 4.000 varietà di patate, 2.016 varietà di patate dolci, 2.000 specie di pesci, 650 specie di frutta. È inoltre famoso per la grande varietà di specie di banane. La miscelazione delle colture e la varietà dei climi differiscono da città a città, determinando diverse cucine locali. A tutto questo si aggiunge la presenza di diverse culture che si sono alternate in Perù. Cultura Inca, influssi dalla Spagna, dal Giappone, dall'Italia e dall'Africa. Si può dire che la cucina peruviana unisce i sapori di 4 continenti. E questo ha contribuito ad arricchire l'offerta di pietanze. Solo lungo il litorale peruviano ci sono più di 2.000 tipi differenti di minestre e più di 250 dessert tradizionali. La cucina della costa risente dell'influenza della cucina araba, della cucina africana e di quella cinese. Il ceviche, con le sue numerose varianti, è un buon esempio di questo adattamento regionale. Il chupe de camarones è uno dei piatti più popolari della cucina della costa del Perù. È un piatto a base di gamberi rossi cucinati con peperoncino, patate e latte. Nella città di Lima è diffusa la cucina creola. Gli anticuchos sono piatti fatti con cuore di bovino marinato con salsa piccante e accompagnato da patate bollite. Un altro piatto tipico è il papas alla huancaina, un piatto che consiste in patate bollite servite su una base di lattuga con una salsa di formaggio piccante con olive. La cucina della costa del nord subisce l'influenza della cucina indiana, quella spagnola e quella africana. Nelle valli e nelle pianure delle Ande, la dieta locale continua ad essere basata sul mais, sulle patate e su un assortimento di tuberi, così come è stato per molte centinaia di anni. Grazie per essere stato con noi questa sera, lo chef Rafael Rodriguez. Buona serata, grazie. Grazie, grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona serata, a sabato, ciao. You've got to give a little. That's the glory of